7. Ascolta e controlla. 1. Ascoltiamo la radio. Anche voi ascoltate la radio. 2. Mangiamo qualcosa. Pure voi mangiate qualcosa. 3. Prendiamo qualcosa da bere. Anche voi prendete qualcosa da bere. 4. Spegniamo il computer. E voi spegnete la televisione. 5. Partiamo in macchina. Anche voi partite in auto. 6. Serviamo subito l'antipasto. E voi servite il vino. 7. Chiariamo bene la nostra situazione. E voi chiarite la vostra. 8. Riferiamo le cose che sappiamo. Anche voi riferite le cose che sapete.